Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Bellezza, quanto sei cambiata. È cambiata la bellezza o siamo cambiati noi? Cosa guardiamo, cosa vediamo quando ci mettiamo davanti allo specchio? Cosa ci condiziona? Quali sono i nostri modelli di riferimento? Un po' come succede con le stagioni, sembra non ci siano più le belle donne di una volta. La bellezza è diventata sempre più standardizzata, e se una volta ad accomunare le donne al giro di boa degli anta era il colore della tinta, vi ricordate il famoso rosso menopausa, ora sono zigomi, tette, labbra, fronti spianate. Voi che ne pensate? 824 0024 se volete intervenire, i messaggi al 349 238 6666. Nell'attesa delle vostre domande, dei vostri commenti, mi faccio un giro in redazione. Saluto Oscar Giannino. Ciao Oscar. Ciao a tutti. Perché vorrei proprio conoscere la versione di Oscar riguardo alla bellezza di oggi. Ma la bellezza di oggi c'è, non è laddove il chirurgo scolpisce secondo standard estetici che non mi piacciono. Gli standard estetici hanno a che vedere con la percezione, aesthesis vuol dire questo in greco, la percezione è individuale, soggettiva. Io non credo negli standard. Gli standard che replicano mascelle e zigomi gonfiati e levano le rughe espressive, le pieghe del viso, la possibilità di vedere negli occhi cosa c'è in fondo agli occhi, spesso volontà di patrimonio, come è noto in un rapporto tra uomo e donna. Si sa che io sono un po' pratico nel considerare le cose, però non vedere questo, secondo me, rende la bellezza non ciò che è sempre stata. Percezione individuale, teoria poi di quello che si può dire non attraverso la parola. Io penso che questa maniera di scalpellare standard ci dice due cose: che chi li chiede così si fida così poco della propria espressività da volere un ulteriore scudo per non manifestarla nei rapporti interpersonali, e ci dice però che a tanti piace questo ed è inutile far finta di niente. C'è sempre, in definitiva, un compagno o una compagna che, se gradisce, richiede e giustifica e legittima in maniera anticipata interventi di quel tipo, vuol dire che a sua volta vuole uno scudo, perché si scuda a sua volta, comunica di meno, mente di più, e alla fine gli avvocati prosperano. Oscar, dalla versione al consiglio di Oscar, rivolgiti a una donna. Non faccio testo, io preferirò sempre una piega espressiva, un'irregolarità, un naso pronunciato, un labbro inferiore non particolarmente gonfio. Io preferirò sempre questo, però io non faccio testo. La verità è che, se voi volete, e come è giusto, viviamo in un mondo in cui il senso di sé e l'identità è costruita attraverso una certa immagine che si vede ogni mattina, un po' più dopo il trucco che prima, allo specchio, come dicevi tu. Io capisco che la cura di sé in questa vita che si allunga fino agli 80 anni è assolutamente essenziale, quindi io accetto che questo, che gli interventi, anche oltre alla cosmesi, gli interventi facciano parte di tutto questo. Ma il problema è capire che teoria della comunicazione si mette al centro di questa manutenzione di sé. Io sono per le manutenzioni, quelle che derivano dalle malattie, io sono più esperto di quello. Quindi ho molte amiche, per esempio, che hanno le protesi, ma perché hanno dovuto fare gli interventi al seno. Certo. E so quanto è diverso una protesi che nasce da quel tipo di intervento rispetto a tante altre che impediscono poi alla gente di correre, per essere chiari, se vogliono rendere un po' più problematico. Allora, io sono per quel genere lì, ma la teoria della comunicazione è essenziale. Piacersi e piacere, inutile far finta di no, è una componente essenziale della modernità, e cedere negli scudi per non comunicare penso che sia una maniera per implodere dentro se stessi ed essere più soli. Grazie Oscar Giannino, grazie Oscar, un abbraccio. Ma noi abbiamo anche in linea Matteo Caccia. Ciao Matteo. Ciao Nicoletta. Ci sono donne che sembrano disposte a tutto per restare giovane e le rughe le venderebbero volentieri. Tu per regali non ne vuoi, vero? Tu vendi solo. Sì, no, al momento ancora vendo solo. Guarda, io ti dico la verità, non sono proprio fermamente contrario alle protesi o alla chirurgia. Io credo che, se una persona abbia voglia di stare meglio e di sentirsi di conseguenza più bella, insomma, valga, nei limiti del lecito valga tutto. Io credo che la cosa più difficile sia però per gli uomini e per le donne riuscire a mantenere i propri canoni di bellezza contro i canoni di bellezza che vengono abitualmente, certo, raccontati, no? dai media, dalla TV, dai giornali, per cui uno rischia di fare confusione e quindi dire: ma com'è che a me piace una cosa che è diversa da quella? Forse mi sbaglio e deve piacere anche a me quello, no? Mi deve piacere quel genere di donna o di uomo che mi viene raccontata dalle immagini che tutti i giorni mi vengono propinate. Per cui, come diceva Oscar prima, poi spesso e volentieri ci sono dei piccoli difetti che sono una cosa bellissima, proprio perché un piccolo difetto ti racconta meglio tutto quello che ci sta intorno, no? Per cui magari attorno ad un naso leggermente pronunciato c'è un viso meraviglioso che ti viene raccontato grazie a quel piccolo difetto che attira su di sé l'attenzione e poi la irraggia sul resto. Guarda, credo fondamentalmente a questo, che però si debba riuscire a tenere saldi i propri canoni di bellezza contro quelli che, se non sono quelli che ti vengono raccontati quotidianamente. Allora Matteo, riscopriamo i difetti, illuminiamo, facciamo di un difetto il nostro tratto caratteristico. Grazie Matteo. Grazie a te Nicoletta, buona giornata. Questo è il Côté maschile, ma sappiamo che non è solo lo sguardo maschile a condizionare l'idea che una donna si fa di sé, ma anche quello di amiche e colleghe. Ci sono modelli con cui, volenti o nolenti, ci confrontiamo. In linea quindi ho chiamato la mia amica Deborah Rosciani. Ciao Deborah. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti. Andiamo alle quotazioni delle rughe. Sì, guarda, poi tra l'altro interpelli proprio me stamattina sull'argomento, che ho un brufolo in faccia veramente esplosivo e questa mattina l'avrei cancellato molto volentieri con qualche intervento esterno. Detto questo, la quotazione della ruga, ci sono due termini finanziari che forse ci possono aiutare a capire quello che penso io su questo argomento. Quando gli analisti suggeriscono e esprimono una raccomandazione di investimento o meno di un certo titolo, dicono che quel titolo per esempio può essere hold, cioè mantenere, oppure underweight, sottopesare. Questo esprime quello che penso io sull'argomento. Manteniamo il segno sul viso perché tanto è il segno della nostra storia, del nostro passato, e quindi siamo sicuramente noi. Al limite, se proprio la ruga ci fa sentire a disagio, underweight, alleggeriamo un po' il peso della ruga sul viso con qualche intervento naturale. So che sono dei discorsi molto, no, molto, ma mi diffusi, piace molto questo. Scontati. Però ecco, sono un po' in linea con quello che dicevano i miei illustrissimi colleghi poco fa. Non, come dire, demonizzo in assoluto un intervento, perché ognuno va rispettato e ognuno deve sentirsi bene ovviamente con il proprio corpo. Io non lo farei e non credo che lo farò mai. Detto questo, fra 10 anni non so quello che potrei pensare guardandomi allo specchio, quindi magari potrò anche cambiare opinione. Quindi dipende un po' dal momento, dal frangente, dalla storia. Ti dico che ho i colleghi intorno che mi stanno ridendo tutti quanti, perché non lo so, forse immaginano che li vada a fare questi interventi. In realtà penso di portare abbastanza dignitosamente i miei 40 anni. Magnificamente, Deborah. Meno male, grazie. Nonostante il brufolone di stamattina, che se mi vedessero... Quello fa giovane, no, Deborah? Meno male che ogni tanto vengono, sì, anche i brufoli. Sto ritornando adolescente, sto ritornando un po' a questi sprazzi ormonali, diciamo, legati ai miei 15 anni, probabilmente. Ciao Deborah, un abbraccio. Grazie. Ciao Nicoletta, ciao. Adesso tocca a voi. 824 0024. Come vi vedete? Cosa guardate negli altri? Cosa cambiereste di voi? Il vostro aspetto fisico è per voi generatore di sicurezza o di insicurezza? Oggi, insomma, una puntata dalle mille sfumature, proprio come la bellezza. Gli ospiti sono tanti, inizio a presentarvi. Una psicologa in diretta per chi vuole scoprire attraverso una serie di domande, una sorta di test, che immagine ha di sé, quanto questo condizioni la sua vita di relazione. E qua con me in studio la dottoressa Piera Sorrentino. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Vuole mettersi subito al lavoro, così andiamo avanti? Certo, potrei cominciare. Vabbè, a parte che vorrei dire una premessa, che la bellezza appunto sta negli occhi di chi guarda, come dice Proust. Potremmo cominciare con un test, una domanda dove bisognerebbe pensare appunto di essere davanti a uno specchio, sì, e bisognerebbe descriversi con 3 aggettivi, cioè come ti vedi, come ti descrivi. E poi per esempio, se tu fossi per strada e passassi davanti a un gruppo di persone sedute a un bar, come pensi che ti descriverebbero, cioè come descriverebbero il tuo aspetto con 3 aggettivi? Anche uno solo? Anche possiamo. Uno, sì, anche uno. Allora, siate sincere, non abbiate paura di raccontarvi e di scoprirvi. Oggi siamo in grado di trovare per ogni problema un'indicazione. Qua in studio con me, e dico in studio, è quasi un avvenimento, il professor Antonino Di Pietro, dermatologo plastico di Milano e presidente dell'ISPLAD, che è la Società Italiana di Dermatologia Plastica. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. La vediamo in carne e ossa, questo già ci spiana le rughe. Possiamo trovare per ogni problema una soluzione? Certo. O quasi? Quasi, diciamo quasi. L'importante è trovare una soluzione che sia rivolta sempre a migliorare la vita delle cellule. Noi siamo fatti di cellule e dobbiamo pensare che tutti i nostri sforzi per restare giovani devono pensare a questo. Quindi migliorare la vita delle cellule e non riempire la ruga. Cioè, i grossi errori che sono stati fatti in questi anni è l'aver pensato che la giovinezza sia l'assenza di rughe, quindi un viso completamente spianato. Ecco, questo non ha fatto altro che creare delle maschere da circo, come sì, io le chiamo, quindi dei clown. E l'errore è proprio quello. Accanirsi a riempire una ruga vuol dire deformare una faccia. E purtroppo si vedono sempre più donne che nella vita magari sono state e sono ancora importanti, perché hanno fatto delle cose incredibili, e arrivano a un certo punto e vanno in crisi, deformano la faccia, quindi non ringiovaniscono, deformano la faccia e perdono tutta quell'importanza, perché diventano ridicole. E questo è veramente un peccato. La buona notizia è che al posto di spianare la ruga noi possiamo far sì di nutrire le nostre cellule e mantenerle sì, giovani, mantenerle certo, in buona salute, farle funzionare bene, regalarci quell'aspetto certo, di viso riposato. Certo. Il compito del medico non è di riempire la ruga, non, almeno non dovrebbe essere quello di riempire la ruga, ma di rigenerare. Quindi rigenerare le cellule, la pelle, fare in modo che ci sia una bellezza naturale, autentica, come io la chiamo. Oggi noi però vogliamo aggiungere anche un pizzico, io dico di ironia, ma io vorrei dire anche di autostima. Noi donne sappiamo ridere di noi, a volte lo dimentichiamo, ma lo sappiamo fare bene. Se pensate di non essere più capaci, fate un conto che è un po' come andare in bicicletta, si risale e si va. Qua in studio con me è tornata a trovarmi Alessandra Faiella, attrice, autrice, scrittrice, nuovamente in libreria, ecco, con Il Lato B, Fazzi sì, editore. Sì. Il Lato B è un lato bello? Il Lato B è un'icona della contemporaneità. Cioè, oggi parliamo di bellezza, nel Lato B è un romanzo, è un libro comico, divertente, però si parla di queste cose, cioè si parla del ruolo, anche si parla di questo, del ruolo della donna in televisione, di come oggi i modelli proposti dai media siano centrati prevalentemente su il lato B, diciamo su una donna smembrata, su una donna fatta a pezzi, dove ciò che conta quindi non è l'integrità della sua bellezza intesa come insieme di corpo, anima, storia e intelligenza, storia, ma è una specie di roba da macelleria in cui determinate parti sono messe in evidenza più di altre, indovinate un po' quali. In ogni caso, in una società dove in generale è meglio avere la faccia come il lato B, questo allora, da diversi punti di vista. Ecco. Noi, oltre ad essere ironiche, siamo anche piacevolmente creative. In linea con noi abbiamo Lucia Rappazzo, direttore di Psicologia. Buongiorno, ciao. Ciao. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Lucia, tu sei qui per raccogliere adesione ad un bel progetto, il Manifesto della Bellezza Autentica. Assolutamente. Abbiamo voluto lanciare questa iniziativa nel nostro numero di giugno, perché noi della redazione di Psicologia pensiamo che sia il momento davvero di riflettere tutti insieme su che cos'è veramente la bellezza. E soprattutto il momento di aumentare la nostra consapevolezza in questo senso, perché purtroppo in giro, l'abbiamo già detto, l'ho già sentito dire dai colleghi, dagli altri ospiti, si vede spesso in giro il senso di una bellezza che non è altro che l'adesione incondizionata dei modelli che ci vengono proposti. E questo è un problema, a volte diventa addirittura un dramma, soprattutto nelle giovanissime. È un problema perché in realtà ognuno di noi è un individuo unico e irripetibile, e questa è la sua vera grande ricchezza. E quindi la vera bellezza, la bellezza autentica, è la capacità di esprimere al meglio questo essere un individuo irripetibile e unico. Il che non vuol dire non curarsi. Certo, non è avanti racchie il Manifesto della Bellezza Autentica, assolutamente no. Ma non è sciatteria, neanche né sciatteria. Vuol dire cura, vuol dire ognuno poi può trovare il modo, lo strumento che ritiene più opportuno per valorizzare la propria bellezza. L'importante è che dietro questa valorizzazione, dietro questa scelta, non ci sia un desiderio, che non è mai poi gratificante in realtà, di somigliare a qualcun altro. Venere ci chiama da Milano. Come potevamo aprire con Venere? Buongiorno. Lei si chiama veramente Venere? Sì, mi chiamo veramente un Venere. Un nome e un destino. E poi meno male che ascolta Radio 24, meno male che ci siamo incontrati. Aprire con lei è una garanzia. Va bene, è una caratteristica della mia persona, anche molto probabilmente ognuno di noi anche nel nome si porta qualcosa. Io non sono una Venere, attenzione, non è questo. La mia mamma ha deciso per questo nome, che mi porto comunque discretamente, ma volevo portare la mia esperienza. Io sono una donna di 52 anni. Sì. Faccio anche l'insegnante, quindi ho a che fare con le adolescenti di adesso, sia ragazze che ragazzi. Sì. E vedo quindi le due parti, le adolescenti e l'adulta come me, donna che ha le rughe, ha il cedimento dei tessuti, nonostante io sia un insegnante di educazione fisica. Pensi per gli altri. Con le sue ospiti e i suoi ospiti. Ognuno di noi ha delle caratteristiche, io non li chiamerei difetti, sono delle caratteristiche del nostro viso, del nostro corpo, che proprio ci rappresentano unicamente. E come un mio appello a tutte le donne magari che mi stanno anche ascoltando, vi ringrazio di darmi questa possibilità, di dire che in realtà noi abbiamo l'autostima, è la cosa più importante, perché ognuno di noi ha delle cose belle ed è, bisognerebbe solo valorizzarle. Venere, allora scusi, la interrompo per chiederle, Piero Sorrentino ha lanciato due domande chiave. Descriviti quando sei davanti allo specchio con tre aggettivi. Lei che aggettivi userebbe? Che ho uno sguardo interessante, sull'aspetto fisico naturalmente, certo. La domanda è giusto? Sì. Che sarebbe piaciuto magari essere un pochino più alta, il mio 1,60 m. Quindi interessante, bassetta e? E i miei denti a coniglietto. Con denti a coniglio. Grazie a Venere per essere stata con noi. Andiamo invece da Enzo, che ci chiama da Firenze. Buongiorno Enzo. Buongiorno, ben sentiti tutti quanti. Mi fa piacere partecipare a questa trasmissione, solo per dare un mio modesto parere. Sì. Ho una cultura delle donne abbastanza ampia perché convivo con molte donne in casa, tra figlie, nipoti, suocere, pensavo avesse un harem. Alessandra pensava avesse un harem. E comunque sono un uomo beato fra 7-8 donne. Bravo. Allora, fortunato. Forse, comunque sono felice così. La differenza generazionale tra un adolescente, una bambina, una ragazza, una donna e poi così andando avanti è sempre nella bellezza dell'interiore, perché comunque qualsiasi persona che è talmente bella viene a noia. Ah. E questo ne parlo anche per esperienza personale. Io, mia moglie stessa, ha molti anni più di me e l'apprezzo per quella che è dentro, non per quella che è fuori, anche se fuori è una bellissima donna, però l'apprezzo molto di più per quella che è dentro, la naturalezza, la semplicità e la sincerità, cosa che purtroppo tante donne che si trattano, si rifanno il seno, le labbra già a 20 anni o a 30 anni, perdono un po', secondo lei perdono la sincerità perché non fanno più vedere quello che hanno di naturale. Enzo, grazie, mi saluti le sue donne. Presento, è stato un piacere, buona giornata. Grazie a Alessandra. No, io volevo dire una cosa che a me colpisce sempre quando poi parlano gli uomini dicono sempre: ma a me non interessa la cosa artefatta, io amo la bellezza, però... essere belle dentro. Allora, o raccontano delle gran balle o noi siamo stupide. No, noi siamo stupide. O mi viene il dubbio che in effetti questi modelli, no, famosi dei media eccetera eccetera, abbiano due fini: quello del business, cioè quello di vendere il più possibile prodotti legati al mantenimento della pseudo eterna giovinezza e bellezza; due, siano quelli di bloccarci come esseri sociali pensanti, parlo delle donne, di relegarci a un ruolo come sempre marginale, che poi sono quelle tre lì, no? Sì. Cioè mamma, zoccola, qual è il terzo? Non mi viene. Cioè mamma, moglie, zoccola, bloccarci lì, gnocca, diciamo, e non farci fare un passo in avanti, perché probabilmente il singolo uomo non è così accanito nel volere a tutti i costi il seno turgido, magari finto, o la ruga spianata, ma sicuramente c'è un modello maschile che è stato introiettato anche alle donne che non ci aiuta ad andare avanti. E siamo se- sempre lì. Professor Di Pietro, lei che in questa cosa fa l'uomo, vero, oltre ad essere il nostro esperto. Certo, faccio l'uomo, ma è così, tra noi uomini, quando vediamo delle ragazze o delle signore e si vede lontano un miglio, insomma, che sono rifatte, ci viene da ridere, diciamo, ma quella è tutta rifatta, e quindi la bocciamo subito, cioè va, scade avanti, completamente. Anche così. Perché prima tu hai detto, ma noi dobbiamo usare autoironia, le donne rifatte non possono, non possono ridere, perché una signora rifatta una volta, io sono, magari faccio battute, mi diceva, non mi fare ridere, perché se rido mi portano i capezzoli al cieco qualcuno, era talmente tirata che non ce la faceva più neanche a ridere. 800 24 00 24, insieme al professor Antonino Di Pietro, però vi daremo anche delle indicazioni, parliamo di bellezza ma anche di bellezza autentica, sostenendo l'appello lanciato da Lucia Rappazzo nel mensile Psicologie, ma daremo anche delle indicazioni per non cadere in mani inesperte, per evitare di trovarci intrappolati in spianamenti vari. Siamo tornati insieme in una puntata tutta dedicata alla bellezza, a quella che vorremmo definire autentica. È il manifesto che lancia il Psicologie. In linea con noi abbiamo il direttore Lucia Rappazzo. Lucia, ma adesso che più donne aderiranno al manifesto, concretamente come ci si potrà muovere? Ma guarda, noi abbiamo già un accordo con l'onorevole Francesca Martini, che è sottosegretario alla salute, sì, per aprire un tavolo proprio con le istituzioni a proposito di che cosa si può fare concretamente per sviluppare una consapevolezza più ampia di quello che vuol dire veramente bellezza. E quindi credo che tutte le iniziative che ne scaturiranno, che potranno essere iniziative educative piuttosto che iniziative di coinvolgimento di donne adulte, lo vedremo questo poi naturalmente, andranno tutte in questa direzione. Senti Lucia, molto spesso si dice l'immagine che abbiamo di noi è condizionata dall'immagine che vediamo sui giornali, sulle riviste, donne bellissime in copertina, protagoniste di servizi, e arrivano spesso donne che si sono affidate abbondantemente al bisturi e mandano un modello di bellezza che è assolutamente artefatta. Tu che sei direttore di un giornale molto seguito, un giornale che si rivolge alle donne e anche agli uomini, ma come ti destreggi in questo? Da un lato immagino che sia legittima, no, da parte di un direttore mettere immagini di belle donne, dall'altro c'è questo manifesto della bellezza autentica che dà un segnale molto evidente e chiaro di quello che è l'orientamento del tuo giornale. Certo, certo. Io non credo che ci sia una contraddizione tra il fatto di mostrare delle donne universalmente riconosciute come belle, per universalmente intendo che hanno dei canoni che la società di oggi riconosce come canoni di bellezza, e il fatto di ritenere che ognuno di noi deve soprattutto valorizzare se stesso. Nel senso che quello che è importante è l'atteggiamento di chi ti propone un'immagine, che deve essere un atteggiamento non impositivo di un modello, ma un atteggiamento anche, se vuoi, un filino ironico, nel senso che tu mostri una donna molto bella, perché è difficile immaginare di mostrare in un servizio di un giornale una donna, come dire, banale, no? Tra virgolette, nel senso che non abbia un'immagine che impatta, no? La mostri molto bella, ma la mostri anche nella consapevolezza che lei è così e tu puoi essere così, e puoi essere altrettanto bella nel tuo ambito, ti puoi sentire altrettanto bene con te stessa, puoi esprimere altrettanto, che poi è la cosa veramente importante, la tua personalità. Professor Di Pietro, quando una donna viene da lei, che cosa le chiede? Di assomigliare a qualcuno, ad un modello, oppure di aiutarla a stare meglio, a vedersi più bella? È cambiato qualcosa negli ultimi anni? È un 50%. Io ho metà delle mie pazienti che mi chiedono di poter far qualcosa per mantenersi più giovani. E poi ho metà dei miei pazienti che invece mi arrivano con dei modelli, mi arrivano dicendo, ecco, io vorrei le labbra così, vorrei gli occhi così, la faccia senza rughe, come, mi fanno dei nomi. Nessuno le fa il mio, no? la maggior parte. Perché sei in radio, anche sul sito magari di Alessandra Faiella. Vabbè, non esageriamo adesso. Magari anche noi siamo piccoli modelli. Sì, no, sto scherzando. Dei modellini. Ma la bellezza è un'emozione. La bellezza. Prima parlavamo di uomini. Ci sono uomini che si vedono in giro con delle donne e alcuni dicono: ma come fa quella lì andare ad avere un uomo, un marito, un fidanzato? Ecco, la bellezza è un'emozione. È l'emozione che si riesce a trasmettere a chi sia di fronte. Non necessariamente deve essere un viso perfetto e liscio. Un viso perfetto e liscio è quello delle statue greche. Ma se io penso di abbracciare e baciare una statua greca, non mi viene neanche in mente, perché è troppo perfetta, è troppo liscia. Quindi, al di là di questo, è vero, ci sono dei modelli, ma io credo che si debba cominciare a smantellare questi modelli che passano attraverso i giornali e a dire chiaramente, se c'è un viso rifatto anche di un'attrice famosa, dire non è bella, è rifatta. Ecco, perché finché continuiamo a leggere su certi giornali carte patinate come bella questa XY e invece poi guardiamo le fotografie e capiamo che non è e vero poi, ma poi c'è anche un fraintendimento. Allora vabbè, in televisione noi vediamo certi modelli perché, come dicevo prima, vendono, no? Cioè, se c'è la gnocca in televisione, la curva dell'Auditel si alza, non solo la curva dell'Auditel, e quindi gli inserzionisti pubblicitari mettono i soldi, quindi c'è dietro un discorso di business. Però c'è anche un fraintendimento poi nell'interiorizzare questi modelli noi donne normali e cercare di adeguarci, perché effettivamente quello che funziona in televisione non funziona nella realtà, come diceva appunto il professor Di Pietro. Cioè, in televisione tutto sommato la rifatta può passare per bella donna. Nella realtà, io sono d'accordo, bisogna cominciare a dirlo, ha ragione il professor Di Pietro, nella realtà fa cagare, scusatemi il termine, ma è così, perché io vedo questo fintume, io le ho viste dal vivo, sono orrende, cioè hanno questi sembrano quasi segnate col pennarello le labbra e si vedono proprio questa innaturalità. Quindi ragazzi, puntate alla bruttina stagionata. Voglio leggervi un messaggio che voglio commentare con Piera Sorrentino. Il problema delle donne è che prima di piacere agli uomini vogliono piacere alle donne. È squallido, ma è vero, dottoressa Sorrentino. Comunque piacere al proprio, insomma, alle amiche, alle donne attorno, sicuramente è vero che è importante, perché la complicità tra donne è essenziale. Però è vero anche che a noi donne piace piacere all'uomo, perché insomma alla fine ci fa sentire ci fa sentire bene, ci fa sentire belle. Direi che forse la cosa più importante è il piacere a se stesse per prima. E c'è in linea una donna che piace alle donne, piace agli uomini, e io penso piace a se stessa. No, si piace secondo me. Maria Grazia Cucinotta. Allora, ciao Maria Grazia. Buongiorno a tutti voi. Beh, tu, voglio dire, hai aderito al manifesto della bellezza autentica e tu sei anche fortunata, perché Madre Natura ti ha dato tutto. Beh, Madre Natura mi ha dato tutto, ma poi ho sempre avuto paura dei cambiamenti e del non poter tornare indietro. Devo dire che adesso, arrivata a 40 anni, mi piaccio, però prima, logicamente, quando sei ragazzina mi sarei rifatta tutto. È stato un deterrente il fatto che io vedo un ago e svengo, e quindi avendo terrore dei bisturi e tutto quello che sono aghi, cosa, mi sono tirato sempre indietro. Però se non avessi avuto paura quando ero ragazzina, probabilmente sarei caduta nella tentazione di chi mi diceva rifatti questo, rifatti quello. Senti Maria Grazia, ma quando tu vai davanti allo specchio, noi, Piera Sorrentino diceva, provate a descrivervi con tre aggettivi. Io, se vuoi dirci tre aggettivi, intanto ti do il tempo per pensarci, ma tu dai uno sguardo d'insieme o ti soffermi sui particolari? Guarda, dipende, se ho le lenti a contatto o meno. Diciamo che la mattina senza lenti a contatto logicamente mi vedo un'immagine fantastica di me stessa, poi metto le lenti a contatto e comincio a vedere i dettagli sono sempre disastrosi. Sì. Però nell'insieme non devi mai soffermarti più di 5 minuti. Al sesto minuto già vorresti correre da un chirurgo. Senti, ma Maria Grazia, tu dicevi da ragazzina non mi piacevo, poi con gli anni, Alessandra, non so se è capitata anche a te, siamo un'altra categoria rispetto a Maria Grazia Cucinotta, però io mi sono assolutamente resa conto che invecchiando io mi piaccio molto di più. Alcune cose che credevo brutte adesso mi piacciono, un po' come mi succede con Milano. Quando sono venuta ad abitarci, io arrivavo da Torino, dicevo oddio che città, adesso la guardo, e proprio anche ieri sera mi trovavo in un punto di Milano e la scoprivo bella. Ho detto, ecco, guarda, un po' come succede a me davanti allo specchio, no? Maria Grazia, è successo anche a te qualcosa che non ti piaceva, poi hai scoperto più bello? No, prima, devo dire la verità, cercavo delle risposte negli altri, no? Cercavi, sì. Perché poi quando sei ragazzina cerchi dei consensi, tuttora li cerchi, perché poi ti vesti, ti trucchi, perché gli altri ti possono dire che stai bene. Oggi sinceramente me ne frego un po' di più, nel senso, se mi piaccio vado, quei consensi li cerco in me stessa più che andare in giro, perché mi sono resa conto che la gente fa di tutto per farti sentire un disastro e quindi ho smesso di cercare consensi altrove. Senti, dammi quindi il segreto della bellezza autentica. Correggere o mantenere, o che fare? Uno deve fare quello che si sente di fare, perché devi stare bene con te stesso, ma stare bene con te stesso non significa uccidere la propria immagine per cercare di somigliare a qualcuno che secondo te è meglio di te. Quindi cercare di mantenerti, e soprattutto è meglio essere diversi e imperfetti, però essere unici, perché l'unicità ti rende preziosa, perché tutto quello che è unico è prezioso. Maria Grazia, grazie per essere stata con noi, un abbraccio, buona giornata. Un bacio a tutti voi. E buono specchio. Flora ci chiama da Verona, buongiorno Flora. Buongiorno. Sono Flora da Verona, sì. Io volevo dire a voi la mia esperienza. Sì. Io 11 anni fa mi sono fatta rifare, ho fatto una rinoplastica perché il mio naso non mi piaceva. Ha fatto bene. Allora, però, le voglio dire una cosa, che prima ero corteggiatissima, dopo aver rifatto il naso, le assicuro, non sono ho scappati. Più avuto un corteggiatore. Ma la rivincita del naso importante. Flora, ma veramente? Ma veramente, no, non le sto... Sì, dobbiamo lanciare un appello. C'è Flora con un naso nuovo e i corteggiatori sono spariti. Dove siete andati? Tornate? Volevo dire che probabilmente quando si ha qualche piccolo complesso si buttano fuori altre doti che noi abbiamo, che magari non le conosciamo. Io adesso sono più sicura di me stessa, però probabilmente manca quel qualcosa. Probabilmente il mio naso era affascinante. Sì. E adesso il fascino l'ho perduto. Professor Di Pietro. E così, infatti, prima parlavamo di categorie, no? Le pazienti che vengono, che cosa chiedono. Non ho detto invece una cosa importante, me ne dà spunto adesso l'ascoltatrice. Sono sempre di più invece le donne che vengono perché sono pentite, che vorrebbero tornare indietro, ma in molti casi non è più possibile. Quindi la schiera dei pentiti o delle pentite è in grande aumento. Ma sì, ma perché è proprio cancellare la nostra identità, cioè quello su cui non si riflette abbastanza, prima di fare un intervento, è che togliere degli aspetti del nostro viso, tagliare, manipolare, significa privarci della nostra identità. Ma certo. E capisco che la signora abbia meno corteggiatori. Ma Lucia, da voi possono anche aderire persone che si sono rifatte e poi si sono pentite. Ma assolutamente sì, anzi approfitto per ricordare, se siete d'accordo con la nostra idea di lanciare una maggiore consapevolezza di quanto sia importante sottolineare la propria unicità e non voler somigliare ad altri, mandate una mail a segreteria psi con la y chiocciola hachette.it, in modo che aumentano le donne e uomini, non è solamente un manifesto, ecco, certo. No, puntualizziamo. Volevo soffermarmi su un dettaglio prima di chiedere al professor Di Pietro le cose da non fare, che sì, mi sembrano più importanti, poi faremo un saltino anche in sala operatoria. Dottoressa, noi tante volte leggiamo di storie di pazienti che si rifanno e non si piacciono mai, e quasi in alcuni casi si può veramente parlare di una patologia. Sono quelle donne, quegli uomini che continuano a rincorrere un modello, un ideale, e non c'è bisturi, non c'è ritocco, non c'è lifting che li possa accontentare. Esattamente, è vero? Sì, è vero, purtroppo, appunto. Un conto è quando ci si vuole un po' migliorare, si vuole migliorare l'aspetto, e quindi io non sono contro la chirurgia, qualche intervento nel caso appunto di qualcosa di non irreversibile, un ritocco. Il problema è quando appunto non basta mai questa cosa, ma logicamente è come faccio ad accorgermi? qua voglio lo psicologo, che il sto rincorrendo qualcosa, e in effetti il disagio è qualcosa di molto più profondo interno a me, e non è il naso piuttosto che il codice a barre sulle labbra. Qual è un segnale che mi può far capire che sto andando quando oltre? Mia madre non mi riconosce più e dice ciao Gianna, ma non sono Gianna, sono Alessandra. Allora comincio a preoccuparmi, no, quando appunto non ci si sente mai soddisfatti, e quando si è convinti che non si potrà mai piacere agli altri, cioè quando quindi ci si fissa sull'aspetto esteriore. Questo è, professor Di Pietro, le cose da non fare assolutamente, sì, per non diventare di plastica, certo, poi entriamo in sala operatoria. Una premessa brevissima: io che mi occupo da più di 20 anni dei problemi legati all'invecchiamento del nostro corpo, della nostra pelle, devo ribadire il fatto che è un sacrosanto bisogno il nostro di voler restare un po' più giovani, e quindi abbiamo un dovere tutto sommato che è cercare di seguire questa nostra esigenza. L'errore si compie quando poi dopo ci sono gli eccessi. Prendiamo l'esempio dei denti, ecco, nessuno si sognerebbe oggi di dire tra qualche anno mi cadranno i denti. Io prima sentivo di ragazze giovani che dicevano sì, può darsi che domani io faccia qualcosa, però adesso magari non lo farei. Ecco, io sono sicuro che tutti prima o poi avranno il bisogno, la voglia di fare qualcosa, è un po' come mettere i denti a posto. Il guaio è che adesso viviamo l'epoca dei denti d'oro, cioè l'epoca di 50-60 anni fa in cui chi cambiava i denti se li metteva tutti d'oro, poi sorrideva ed era una cosa imbarazzante. Ecco, adesso è improponibile, no, pensare di farsi dei denti d'oro, però viviamo nell'epoca in cui chi si rifà la faccia o si rifà qualcosa è come se facesse i denti d'oro, cioè fa delle cose che tra qualche anno saranno ridicole e viste come qualcosa di ridicolo. Quindi attenzione a quello che si fa, no ai filler permanenti, quindi no a tutte quelle sostanze che si mettono nella pelle per riempire le rughe e che rimangono per sempre. Prima o poi si pagherà questo, perché la pelle darà luogo a una crisi di rigetto, si gonfia tutto, si diventa dei palloni ridicoli, e quindi no a queste sostanze. Io personalmente sono contrario anche alla tossina botulinica, che vedo come una cosa assurda. È incredibile pensare che si debba paralizzare una faccia per non far vedere più delle pieghe, mandando a quel paese l'espressione. Ci sono persone che ridono oppure sono tristi, vogliono trasmettere qualcosa anche con la mimica e non possono farlo perché sono paralizzate da una tossina che ha bloccato tutto che spiana il viso, le rughe. Ecco, queste sono cose che andrebbero evitate sicuramente. In linea abbiamo il professor Angelo Longoni, buongiorno. Buongiorno a voi. Io la rinviterò, professore, perché adesso abbiamo proprio un minuto, ma intanto voglio presentarla. Il professor Longoni è chirurgo plastico ricostruttivo ed estetico e primario al Multimedica di Sesto San Giovanni alla Casa di Cura Santa Maria. Professore, io vorrei chiedere a lei, prima di affidarsi ad un chirurgo plastico ricostruttivo, cosa devo fare? Come faccio a capire che quel professionista è un vero professionista? Ho 30 secondi, mi spiace, poi sul tema ritorneremo, ma abbiamo avuto tanti ospiti, mi dia un'istruzione. Ma sai, è abbastanza banale, non è come la scelta del ristorante, insomma, che il tantam a volte non è sufficiente. Esiste una società, che è la Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, che ha oltretutto online il nome degli iscritti, e tutti gli iscritti sono professionisti specialisti in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, che è una specialità post laurea della durata di 5 anni. Quindi questo può essere già un buon inizio, insomma. E ricordate sempre che si tratta di interventi, sempre, e come tali, ecco, non vanno mai presi, non, dato che se ne fanno tanti, vanno sempre bene. Ecco. Professor Longoni, torneremo a parlarne. Io ringrazio i miei ospiti con un grazie collettivo, Lucia Rappazzo, che è in linea lontana, la saluto in modo particolare. Grazie, grazie Lucia. Grazie a te, Nicoletta, arrivederci a tutti. Torneremo ad affrontare l'argomento. Vi segnalo che esiste anche un movimento ragazze controcorrente AIDAP, sono delle ragazze che vogliono dire no a questa bellezza standardizzata. Le inviteremo in una prossima trasmissione, oggi non abbiamo avuto tempo, intanto comunque sono rintracciabili sul sito. Grazie a voi che ci avete seguito, grazie ai miei ospiti. Allora, bellezza in gamba, mi raccomando, a domani.